Capitolo 7. I primi 3 mesi passati a Lowood mi parvero un secolo, e non certo un secolo d'oro, poiché dovetti sostenere una lotta spossante contro ogni genere di difficoltà per abituarmi a una diversa regola di vita e a nuovi doveri. Il timore di non adempierli bene mi assillava, stancandomi più delle sofferenze materiali, benché queste non fossero lievi. Durante tutto gennaio, febbraio e parte del mese di marzo, la neve e dopo il disgelo, le strade quasi impraticabili, ci impedirono di muoverci oltre i muri del giardino, eccetto che per recarci in chiesa. Tuttavia, entro quei limiti, ci facevano passare ogni giorno un'ora all'aria aperta, e i nostri vestiti non erano abbastanza pesanti per proteggerci dal freddo intenso. Inoltre, essendo sprovviste di stivali, la neve alta ci entrava nelle scarpe, e le mani, senza guanti, si coprivano di geloni, non meno dei piedi. Ricordo ancora il tormentoso prurito che ciò mi causava ogni sera, e il male che pativo al mattino, cercando di infilare nelle scarpe i piedi gonfi e infiammati. Inoltre, il vitto insufficiente contribuiva ad accrescere i nostri patimenti. Le porzioni che a Lowood si destinavano all'esigente appetito di ragazzi adolescenti sarebbero bastate a malapena a tenere in vita un invalido. Questo stato di cose provocava un abuso sistematico a scapito delle più piccole, poiché le grandi, sempre affamate, profittavano di qualsiasi occasione per minacciare le altre di privarle delle loro porzioni. Quante volte ho diviso con due grandi il prezioso pezzetto di pane nero distribuito insieme al caffè, dopo aver ceduto a una terza metà della bevanda. Trangugiavo il resto, trattenendo a stento le lacrime che la fame mi strappava. Durante i mesi invernali, le domeniche erano giornate particolarmente faticose. Dovevamo percorrere 2 miglia per giungere alla chiesa di Brocklebridge, dove officiava il nostro direttore. Ci mettevamo in cammino, infreddolite, arrivavamo intirizzite e prima che il servizio del mattino terminasse eravamo quasi paralizzate dal freddo. Poiché non si faceva in tempo a ritornare a Lowood per la colazione, tra i due servizi ci distribuivano pane e carne fredda in proporzioni insufficienti come quelle di casa. Al termine del servizio pomeridiano ritornavamo per una strada scoscesa ed esposta a tutti i venti, dove una gelida tramontana, scendendo dai picchi coperti di neve, ci tagliava la faccia. Rivedo ancora la signorina Temple, tutta avvolta nel suo mantello a quadri gonfiato dal vento, camminare leggera e spedita lungo la fila delle educande stanche, incoraggiandole con la parola e con l'esempio a procedere come prodi soldati. Le altre maestre, poverette, erano di solito troppo stanche e depresse per cercare di far animo agli altri. Come desideravamo tutte la luce e il calore di un buon fuoco al nostro ritorno. Ma alle più piccole questo sollievo era negato, perché le grandi formavano subito 2 doppie file davanti ai caminetti e le altre dovevano accontentarsi di accoccolarsi per terra dietro a loro, stringendosi l'una all'altra e avvolgendo nel grembiule le mani intirizzite. Alle 5, tuttavia, c'era riservata una piccola gioia sotto forma di una doppia razione di pane, una fetta invece di mezza, con la ghiotta aggiunta di un pezzetto di burro. Era la golosità domenicale, alla quale pensavamo tutta la settimana. Io cercavo in generale di serbarmi una metà di quella lauta merenda, ma il resto ero invariabilmente costretta a dividerlo con le altre. La domenica sera la trascorrevamo ripetendo a memoria il catechismo e il 5º, 6º e 7º capitolo di San Matteo e ascoltando un lungo sermone letto dalla signorina Miller, la quale, a giudicare dai suoi sbadigli, non vedeva l'ora di andarsene a dormire. Spesso quella lettura veniva interrotta dalle più piccole che, rappresentando la parte di Eutiche, cadevano sopraffatte dal sonno, se non dal terzo solaio, dal quarto banco, per essere raccolte tramortite. E il solo rimedio era di spingerle in mezzo all'aula, costringendole a rimanere in piedi sino alla fine del sermone. Qualche volta le gambe non le reggevano ed esse crollavano sul pavimento l'una sopra l'altra. Allora si provvedeva a sostenerle con gli alti sgabelli delle grandi. Non ho ancora parlato delle visite del signor Brocklehurst. A dire il vero, questo signore rimase assente buona parte del primo mese dopo il mio arrivo. Forse aveva prolungato il suo soggiorno in casa dell'arcidiacono. Comunque, la sua assenza era un sollievo per me. Non ho bisogno di dire che avevo le mie buone ragioni per temere la sua venuta. Ma un giorno egli arrivò. Un pomeriggio mi trovavo a Lowood da 3 settimane, mentre con la lavagna sulle ginocchia mi scervellavo sopra una lunga addizione, levando gli occhi, assorta, verso la finestra, vidi passare una figura. Riconobbi subito, quasi per istinto, quella sagoma alta e smunta, e quando 2 minuti dopo tutta la scuola, maestre comprese, si alzò en masse, non ebbi bisogno di guardare per sapere chi fosse entrato. Un passo lungo misurò la stanza ed ecco ergersi accanto alla signorina Temple, alzatasi a sapore, la stessa colonna nera che a Gateshead mi aveva fissata con un cipiglio tanto di malaugurio. Mi decisi a gettare un'occhiata a quel fosco pezzo architettonico. Sì, avevo ragione, era proprio il signor Brocklehurst, chiuso in un soprabito abbottonato fin sotto il mento, che lo faceva sembrare più lungo, più smilzo e più rigido che mai. Non per nulla quell'apparizione mi atterriva. Ricordavo troppo bene i perfidi accenni al mio carattere fatti dalla signora Reed e la promessa data dal signor Brocklehurst di informare la signorina Temple e le insegnanti della mia cattiva indole. Fin dal primo giorno avevo temuto il mantenimento di quella promessa, attendendo di giorno in giorno la venuta di colui che con le sue rivelazioni sulla mia vita passata mi avrebbe per sempre messa all'indice come una bambina malvagia. Ed ora colui era arrivato. In piedi, accanto alla signorina Temple, egli le stava parlando a bassa voce, ed io, convinta che la informasse delle mie colpe, spiavo con angoscia gli occhi della direttrice, aspettandomi di momento in momento di vedere le sue nere pupille posarsi su di me, con espressione severa. Tesi l'orecchio, e poiché ero seduta nelle prime file, riuscii ad afferrare buona parte delle loro parole. Quello che dicevano, per il momento, mi tranquillizzò. «Spero, signorina Temple, che il filo acquistato all'Houghton vada bene». Così, diceva il signor Brocklehurst, mi sembra proprio della qualità adatta per cucire camicie di cotone. Ho provveduto anche agli aghi assortiti. Avverta la signorina Smith che ho dimenticato quelli da rammendo, ma glieli farò avere la settimana prossima. In ogni modo non deve darne più di una alla volta alle ragazze, altrimenti non stanno attente e gli aghi vanno persi. E a proposito, signorina, vorrei che si avesse più cura delle calze di lana. L'ultima volta che sono stato qui ho dato un'occhiata al bucato steso nell'orto. Le calze erano tutte in pessimo stato e dalla dimensione dei buchi ho giudicato che da un pezzo non fossero più state rammendate a dovere. Il signor Brocklehurst fece una pausa. I suoi ordini saranno eseguiti, signore, disse la signorina Temple. Inoltre, riprese egli, la lavandaia mi ha detto che le ragazze cambiano il colletto 2 volte alla settimana. È troppo, la regola non lo permette. Credo di poterle spiegare come è accaduto, signore. Agnes e Catherine Johnstone erano state invitate a prendere il tè in casa di amici all'Houghton martedì scorso e ho dato loro il permesso di mettere un colletto pulito per l'occasione. Il signor Brocklehurst scrollò il capo. Beh, per una volta passi, ma che la cosa non si ripeta troppo spesso. C'è un altro fatto che mi ha meravigliato. Ho notato facendo i conti con la dispensiera che nell'ultima quindicina è stata distribuita 2 volte una merenda di pane e formaggio. Come mai? Ho guardato il regolamento, ma le merende non vi sono previste. Chi ha introdotto questa innovazione e con quale autorità? La responsabilità è mia, signore, rispose la signorina Temple. La colazione era così mal cucinata quel giorno che le alunne non avevano potuto mangiarla e non ho avuto il coraggio di lasciarle digiune fino all'ora di cena. Un momento, signorina. Lei sa che occupandomi dell'educazione di queste ragazze non intendo abituarle al lusso e alle mollezze, ma renderle resistenti alle fatiche, modeste, pazienti e tolleranti. Se occasionalmente il loro appetito resta mortificato per un piatto troppo o troppo poco cotto, per esempio, questo incidente non deve essere neutralizzato sostituendo con una ghiottoneria la pietanza andata male. Ciò non serve che a viziare il fisico e a ostacolare gli intenti della nostra istituzione. Anche una piccola delusione del genere dovrebbe essere motivo di edificazione per le allieve che devono imparare a mostrarsi forti nelle privazioni. Una breve predica non sarebbe fuori luogo in simili occasioni che offrono il destro a un saggio educatore di parlare delle sofferenze dei primi cristiani, dei tormenti dei martiri, delle esortazioni di nostro Signore ai suoi discepoli affinché lo seguissero con la loro croce e infine del suo ammonimento: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Oppure della sua divina consolazione: voi che soffrite la fame e la sete per amor mio, voi siete gli eletti. Ma se lei, signorina, mette pane e formaggio invece di una minestra bruciata nella bocca di queste ragazze, nutre, è vero, il loro involucro caduco, ma non dimostra di capire che al tempo stesso uccide la loro anima immortale. Qui il signor Brocklehurst si interruppe di nuovo, forse sopraffatto dai suoi sentimenti. La signorina Temple aveva abbassato gli occhi quando egli aveva cominciato a parlare. Ma ora guardava dritto davanti a sé e il suo viso, già per natura pallido come il marmo, in quel momento sembrava averne assunto anche il gelo e la fissità, specialmente la bocca, chiusa come se soltanto il cesello di uno scultore potesse riaprirla, e la fronte severa sembrava pietrificata. Frattanto il signor Brocklehurst, ritto accanto al caminetto con le mani dietro la schiena, posava sulla scolaresca uno sguardo solenne. Ad un tratto trasalì, come se qualche cosa lo avesse sgradevolmente colpito, e volgendosi con voce rapida e vibrata, esclamò: signorina Temple, chi è? Chi è quella ragazza con i capelli arricciati? Capelli rossi, signorina? E arricciati? Arricciati tutt'attorno? E con mano tremante puntò il bastone verso quell'oggetto di disgusto. È Julia Severn, rispose in tono pacato la signorina Temple. Julia Severn? E perché hai i capelli arricciati? Perché in sfida ai regolamenti e ai principi di questa casa si uniforma così sfacciatamente alle abitudini mondane? Qui, in un istituto di carità, in una casa evangelica, mostrarsi con una pettinatura tutta ricci. I capelli di Giulia sono ricci naturalmente, ribatté la signorina Temple con voce ancora più pacata. Naturalmente sì, ma noi non ci conformiamo alla natura. Io voglio che queste ragazze siano figlie della grazia. Che significa quell'arruffio, quell'abbondanza? Ho detto e ripetuto che i capelli devono essere tesi, pettinati con semplicità e modestia. Signorina Temple, i capelli di quella bambina devono essere rasati. Provvederò io a mandare il parrucchiere domani. Ma ne vedo altre che ne hanno troppi. Quella ragazza alta laggiù, le dica di voltarsi e faccia alzare tutta la prima fila, si voltino verso il muro. La signorina Temple si passò il fazzoletto sulla bocca come per celare un sorriso involontario, ma dette l'ordine e la prima fila obbedì. Appoggiandomi un po' all'indietro sul mio banco, potei vedere le boccacce che si facevano voltandosi verso il muro. Era un peccato che non potesse vederle anche il signor Brocklehurst, perché forse si sarebbe reso conto che anche se gli riusciva di modificare a piacer suo l'esteriore di quelle ragazze, la sua autorità sul loro spirito era meno che nulla. Dopo aver scrutato per 5 minuti il verso di quelle medaglie viventi, egli pronunciò la sentenza. Le sue parole caddero nel silenzio come rintocchi funebri. Tutte quelle crocchie devono essere tagliate. La signorina Temple cercò di fare un'osservazione. Signorina, riprese egli subito, io servo un padrone il cui regno non è di questo mondo e la mia missione è di mortificare in queste ragazze i desideri della carne, di insegnar loro a vestirsi con modestia e sobrietà, non ad amare gli abiti costosi e le acconciature ricercate. Tutte le ragazze che vedo qui davanti a me sono pettinate, come se la vanità stessa avesse intrecciato i loro capelli e quelle trecce, ripeto, devono essere recise. Pensi al tempo che perdono al... E qui il signor Brocklehurst venne interrotto. Tre altre persone, tre signore, questa volta erano entrate, avrebbero dovuto arrivare un po' prima per non perdere la predica sulla vanità femminile, perché erano tutte e tre sfarzosamente vestite di seta, velluto e pellicce. Le due più giovani, belle ragazze sui 16-17 anni, portavano larghi cappelli di feltro grigio, guarniti di piume di struzzo di moda in quei tempi. E sotto l'orlo di quei graziosi copricapi si intravedeva una folta capigliatura bionda conciata con cura. La signora più anziana era avvolta in un prezioso scialle di velluto orlato d'ermellino e una frangia di ricciolini le ombreggiava la fronte. Le tre signore furono accolte con deferenza dalla signorina Temple, che le salutò col nome di signora e signorine Brocklehurst, accompagnandole ai posti d'onore in fondo all'aula. Pare che fossero arrivate in carrozza con il loro reverendo padre e marito e che avessero proceduto a una minuziosa visita delle stanze al piano superiore. Mentre gli rivedeva i conti con la dispensiera, interrogava la lavandaia e teneva una predica alla direttrice. Ora rivolgevano osservazioni e rimproveri alla signorina Smith, che era incaricata dell'ispezione ai dormitori e aveva in consegna la biancheria, ma non ebbi il tempo di ascoltarle perché ben altro attirò la mia attenzione. Fino a quel momento, pur tendendo l'orecchio ai discorsi del signor Brocklehurst e della signorina Temple, mi ero preoccupata di salvaguardare la mia insicurezza personale, cercando di non farmi vedere. A questo scopo mi ero fatta più piccola che potevo nel mio banco e fingendo di essere assorta nell'addizione, avevo tenuto la lavagna in modo che mi nascondesse il viso. Sarei certo riuscita a passare inosservata se l'infida lavagna non mi fosse sfuggita di mano e cadendo a terra con rumore non avesse attirato tutti gli sguardi dalla mia parte. Allora capii che non avevo più speranza e chinandomi a raccogliere la lavagna rotta in due, preparai l'animo al peggio che non tardò a venire. Che sbadata, disse il signor Brocklehurst. E subito dopo aggiunse: È la nuova allieva, mi pare. Non ebbi il tempo di respirare che lo sentii dire. Non devo dimenticare che ho qualche cosa da dire sul suo conto. Poi, a voce alta, e come mi parve alta, la bambina che ha rotto la lavagna venga avanti. Da sola non sarei riuscita a muovermi, ero paralizzata, ma le due grandi che sedevano al mio fianco mi misero in piedi e mi spinsero verso il terribile giudice. Mi venne incontro la signorina Temple che mi aiutò con dolcezza ad accostarmi, bisbigliandomi all'orecchio: Non avere paura, Jane, ho visto che non l'hai fatto apposta e non sarai punita. Quelle amorevoli parole mi andarono dritte al cuore come un dardo. Tra un minuto vedrai in me un ipocrita e mi disprezzerà, pensai, e a quell'idea un impeto di ira contro i Reed, Brocklehurst e tutti gli altri mi infiammò il sangue. Non ero come Ellen Burns io. Avvicinate quella sedia, ordinò il signor Brocklehurst, indicandone una molto alta occupata fino in quell'istante da una capoclasse. E la sedia fu avvicinata. Metteteci sopra la bambina. Qualcuno mi issò sulla sedia, ma non avrei saputo dire chi. Non ero in grado di curarmi dei particolari in quel momento. Mi accorsi soltanto che mi avevano alzata al livello del naso del signor Brocklehurst, il quale stava ritto a un metro da me, e che un'onda di sete arancione e di pellicce purpuree si muoveva sotto di me tra un argenteo alitare di piume. Il signor Brocklehurst si schiarì la voce. «Signore», disse rivolgendosi alla sua famiglia, «signorina Temple, maestre, alunne, vedete tutte questa bambina?» Certo mi vedevano tutte, poiché sentivo i loro occhi fissi come lenti o storie sul mio viso in fiamme. «Vedete che è piccina e che il suo aspetto è ancora quello dell'infanzia. Il Dio nella sua bontà le ha concesso le spoglie che concede a noi tutti. Nessuna deformità indica in lei un essere a parte. Chi crederebbe che lo spirito del male ha già trovato in lei una schiava ed un agente?» Eppure mi addolora dirlo, questa è la verità. Una pausa, durante la quale ebbi tempo di dominare i miei nervi, rendendomi conto che il Rubicone era passato e che la prova ormai inevitabile doveva essere affrontata con coraggio. «Mie care figliole», continuò il pastore, dalla funebre figura con patetica enfasi, «questo è un momento triste e doloroso, poiché devo avvertirvi che questa bambina, nella quale si potrebbe vedere un agnello di Dio, è invece una piccola reproba, non un membro del vero gregge, ma un'intrusa e un'estranea. Dovete guardarvi da lei, dovete diffidare del suo esempio, se necessario evitare la sua compagnia, escluderla dai vostri giochi, respingerla dalle vostre conversazioni. Maestre, a voi spetta vigilarla». Tenete d'occhio ogni suo movimento, soppesate le sue parole, indagate nelle sue azioni, punite il suo corpo per salvarne l'anima, ammesso che sia possibile. Poiché la mia lingua esita a dirlo, questa fanciulla, questa bimba nata in terra cristiana, è peggiore di molti piccoli pagani che innalzano a Brahma le loro preghiere e si inginocchiano davanti a Juggernaut. Questa bimba è una bugiarda. Qui fece un'altra pausa di 10 minuti ed io, oramai completamente padrona di me stessa, l'occupai a fissare le signore Brocklehurst, le quali s'erano tolte di tasca il fazzoletto ed ora se lo premevano sugli occhi, la più anziana ondeggiando con il busto sulla sedia, le giovanette bisbigliando «Che vergogna!». E il signor Brocklehurst riprese a parlare. «Tutto questo l'ho appreso dalla sua benefattrice, una pia e caritatevole signora che l'ha adottata quando rimase orfana e l'ha educata come una propria figlia. Ma tanta bontà d'animo, tanta generosità furono ripagate da questa piccola disgraziata con così nera, così scandalosa ingratitudine che la sua eccellente protettrice si vide infine costretta a separarla dai suoi propri figli, nel timore che il suo deplorevole esempio ne contaminasse la purezza. È stata mandata qui per essere guarita, proprio come gli antichi ebrei mandavano i loro malati al lago di Bezzeda. Direttrice, maestre, lo ripeto a tutte, non lasciate le acque stagnare intorno a lei». Dopo questa sublime conclusione, il signor Brocklehurst chiuse l'ultimo bottone del suo soprabito, mormorando qualche cosa alla famiglia. Le signore si alzarono, salutarono con un leggero inchino la signorina Temple e quindi si avviarono, veleggiando con sussiego verso l'uscita. Sulla soglia, il mio giudice si volse e disse «Lasciatela per un'altra mezz'ora su quella sedia e che nessuno le parli per tutta la giornata». Eccomi dunque là, fissata su una seggiola più alta di me. Io che avevo dichiarato che non avrei potuto tollerare la vergogna di stare ritta al centro della sala. Non sui miei piedi, ma in cima a un piedestallo ero ora esposta agli sguardi di tutti. Ciò che provavo, nessun linguaggio può descriverlo, ma proprio mentre quelle sensazioni mi gonfiavano il cuore e salendomi alla gola mi soffocavano, una ragazza mi passò vicino e alzò lo sguardo su di me. Quale strana luce brillava in quegli occhi, quale straordinaria impressione provocò in me quello sguardo. Dardeggiante, ne fui tutta rianimata. Era come se una martire, un'eroina passando accanto ad una schiava o ad una vittima in quell'istante le avesse infuso forza. Padroneggiai la crisi nervosa che mi minacciava, rialzai il capo e rimasi a sedere dritta e ferma. Ellen Burns fece una domanda alla signorina Smith riguardo al suo cucito. Fu sgridata per aver chiesto una cosa tanto ovvia e tornando al suo posto mi sorrise di nuovo. Che sorriso fu il suo! Me lo ricordo ancora ed oggi so che era l'espressione di un'intelligenza sottile e di un vero coraggio. Le illuminò i lineamenti pronunciati, il volto scarno, i grigi occhi infossati come il riflesso del sorriso di un angelo. Eppure in quel momento Helen Burns recava al braccio una fascia con la scritta «Sciattona». Circa un'ora prima avevo udito la signorina Scatcherd condannarla a rimanere tutto il giorno seguente a pane e acqua, perché copiando un esercizio lo aveva sporcato con l'inchiostro. Tale è l'imperfetta natura umana, tali macchie si trovavano sulla faccia del più luminoso tra i pianeti. Occhi come quelli della signorina Scatcherd non sanno vedere che i piccoli difetti e restano ciechi alla smagliante luminosità del creato. Capitolo 8. Prima che la mezz'ora fosse trascorsa, suonarono le 5. Il lavoro fu deposto e tutte le ragazze si avviarono al refettorio per prendere il caffè. Mi arrischiai a scendere, era già buio, e rifugiandomi in un angolo mi sedetti per terra. L'incanto che sino a quel momento mi aveva sostenuta cominciava a svanire, sopraggiunse la reazione e in breve il dolore che si impadronì di me fu così opprimente che mi lasciai cadere col viso a terra. Piangevo. Helen Burns non mi era accanto, nulla mi sorreggeva. Abbandonata a me stessa, perdetti ogni coraggio e le mie lacrime inzupparono l'assito. Mi ero proposta ad essere così buona, di imparare tante cose a Lowood, di diventare amica di tutti, di guadagnarmi rispetto e simpatia. Avevo già fatto visibili progressi. Proprio quella mattina ero diventata la prima della mia classe. La signorina Miller mi aveva rivolto un caldo elogio e la signorina Temple, con un sorriso di approvazione, aveva promesso di insegnarmi il disegno e di ammettermi alle lezioni di francese se continuavo a far bene per altri 2 mesi. E poi ero amata dalle mie compagne, le mie coetanee mi trattavano da uguale e le grandi non mi molestavano più. Ora invece sarei stata di nuovo umiliata e maltrattata e chissà se avrei mai potuto rialzarmi. Mai, pensavo, e desiderai ardentemente di morire. Mentre formulavo tra i singhiozzi questo desiderio, qualcuno entrò. Mi scossi. Helen Burns veniva di nuovo in mio soccorso. La vidi avvicinarsi attraverso la lunga aula deserta alla luce morente delle braci. Mi portava il pane e il caffè. «Su, mangia un boccone», mi disse, ma respinsi l'uno e l'altro perché ero troppo agitata per poter ingoiare anche un sorso di caffè o una briciola di pane. Helen mi guardò, forse sorpresa. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a calmarmi e continuavo a piangere. Ella si sedette per terra accanto a me e, stringendosi le ginocchia con le braccia, vi posò sopra il capo. Rimase per un poco in quell'atteggiamento, silenziosa come un indiano. Fui io la prima a parlare. «Helen, perché stai con una ragazza che tutti credono bugiarda?» «Tutti? Sono soltanto 80 le persone che hanno sentito questa accusa e il mondo ne contiene centinaia di milioni». «Ma che cosa mi importa di tutti quei milioni? Le 80 che conosco mi disprezzano». «Sbagli, Jane. Probabilmente nessuna delle educande ti disprezza o ti odia molte, invece ti compiangono, ne sono sicura. Come possono compiangermi dopo quello che ha detto il signor Brocklehurst?» «E il signor Brocklehurst non è il Padre Eterno, e non è nemmeno un uomo che riscuota fiducia o simpatia. Nessuno qui gli vuole bene, perché non ha mai fatto nulla per essere amato. Se ti avesse trattata con particolari riguardi, allora sì che attorno a te, occulte o dichiarate, non avresti trovato che nemiche. Ma così, quasi tutte ti manifesterebbero la loro simpatia se osassero farlo. Può darsi che per un giorno 2 maestri alunne ti guardino con freddezza, ma nascondono in cuore sentimenti di amicizia. E se perseveri nella tua buona condotta, tra non molto questi sentimenti si paleseranno, con maggiore effusione, dopo essere stati temporaneamente soffocati. Inoltre, Jane...» Ella si interruppe. «Inoltre, Helen?» dissi io mettendo la mia mano tra le sue. Ella mi strinse dolcemente le dita per riscaldarle e riprese. «Se il mondo intero ti odiasse e ti credesse cattiva, ma la tua coscienza ti approvasse e ti assolvesse da ogni colpa, non saresti senza amici. No, so che potrei pensar bene di me stessa, ma questo non mi basta. Se nessuno dovesse amarmi, preferirei morire. Non sopporto di sentirmi sola e odiata. Helen, vedi? Per conquistarmi l'affetto, un affetto vero, tuo o della signorina Temple o di qualsiasi altra persona alla quale io voglia sinceramente bene, sarei pronta a farmi spezzare un braccio, ad affrontare un toro, a star dietro a un cavallo imbizzarrito che mi desse un calcio nel petto. Zitta, Jane! Tu dai troppo valore all'affetto degli uomini, sei troppo impulsiva, troppo ardente. La mano sovrana che ha creato il nostro corpo e che vi ha infuso la vita ci ha provveduti di risorse al di fuori di noi stessi e delle creature deboli come noi. Al di là di questa terra, al di sopra della razza umana, vi è un mondo invisibile, il regno degli spiriti. Questo mondo ci circonda perché è ovunque e quegli spiriti vegliano su di noi perché è il loro compito. Se stiamo morendo di dolore e di vergogna, se il disprezzo ci opprime e l'odio ci abbatte, gli angeli vedono le nostre sofferenze, riconoscono la nostra innocenza e io so che tu sei innocente della colpa che il signor Brocklehurst, con voce enfatica e animo vile, ti ha attribuita solamente per ripetere le parole della signora Reed. Lo so perché ho riconosciuto nei tuoi occhi ardenti e sulla tua fronte limpida un'anima sincera. E Dio attende unicamente che il nostro spirito si separi dal corpo per incoronarci con una piena ricompensa. Perché dunque lasciarsi abbattere dalla sventura, se la vita è così breve e la morte è il principio della felicità e della gloria celeste? Tacevo. Helen mi aveva calmata, ma nella tranquillità che ella mi infondeva vi era un'inesprimibile tristezza. Sentivo un accento di dolore nelle sue parole, ma non sapevo d'onde provenisse e quando, non appena ebbe finito, vidi che respirava con affanno, tutta scossa da una tosse secca. Dimenticai per un momento le mie pene, per cedere alla vaga inquietudine che ella mi ispirava. Posando la testa sopra la sua spalla, le cinsi la vita con un braccio. Ella mi attirò a sé e restammo così, in silenzio. Poco dopo un'altra persona entrò. Tra uno squarcio delle nubi che un vento improvviso scompigliava, era apparsa la luna e i suoi raggi, entrando da una finestra, illuminarono le nostre due figure e colei che si stava avvicinando. Era la signorina Temple. «Venivo proprio a cercarti, Jane», disse la direttrice. «Vieni in camera mia, e visto che Ellen è con te, venga pure anche lei». Ci alzammo per seguirla, e dopo aver percorso tortuosi corridoi e salito una scala, entrammo nella sua stanza. Vi era acceso un bel fuoco e mi parve allegra ed accogliente. La signorina Temple fece sedere Helen Burns in una poltrona a sdraio a lato del caminetto, ne prese un'altra per sé e mi chiamò al suo fianco. «Ti sei consolata?» mi chiese guardandomi in viso. «Hai pianto abbastanza? Ora ti sentirai meglio». «Temo che non potrò consolarmi mai». «E perché?» «Perché sono stata accusata a torto e lei stessa, signorina, come tutti gli altri, mi crederà colpevole». «Sarà la tua condotta a dirci che cosa dobbiamo credere di te, bambina. Continua ad essere buona e mi basterà». «Davvero, signorina?» «Sì», mi rispose cingendomi con un braccio. «E adesso dimmi chi è la signora che il direttore chiama la tua benefattrice». «È la signora Reed, la moglie di mio zio. Lo zio è morto e mi ha affidata a lei». «Allora non ti ha adottato di sua spontanea volontà?» «No, signora, anzi, non voleva. Ma mio zio, come ho sentito spesso dire dalla servitù, le aveva fatto promettere prima di morire di tenermi sempre presso di sé». «Allora, Jane, saprai, o se non lo sai te lo dirò io, che quando un colpevole è accusato gli è sempre permesso di parlare in propria difesa. Ti hanno accusata di essere bugiarda? Difenditi davanti a me come meglio puoi. Dimmi tutto quello che la memoria ti suggerisce, ma non aggiungere né esagerare nulla». Decisi in cuor mio di essere il più possibile moderata ed esatta, e dopo aver riflettuto qualche minuto per dar ordine a ciò che avevo da dire, le raccontai la storia della mia triste fanciullezza. Sfinita dalle emozioni, fui molto più mite nella mia descrizione di quanto generalmente non m'accadesse toccando quell'argomento doloroso, e memore dell'ammonimento di Helen a non indulgere al risentimento, infusi nel mio racconto molto meno fiele del solito. Così semplificato e contenuto, esso era più verosimile, e più continuavo, più sentivo che la signorina Temple mi prestava piena fede. Nel corso del racconto avevo nominato il signor Lloyd, che mi aveva curata dopo il mio svenimento, poiché non avevo mai dimenticato l'episodio, tanto pauroso per me, della Camera Rossa, rievocando il quale fui sul punto di perdere il controllo che mi ero imposta. Non si era ancora mitigata nella mia memoria la spasmodica angoscia che mi aveva stretta al cuore quando la signora Reed, disdegnando le mie suppliche sconnesse, mi aveva chiusa per la seconda volta nella camera buia abitata dai fantasmi. Avevo finito. La signorina Temple mi fissò in silenzio per qualche istante, poi disse: «Ho sentito parlare del signor Lloyd. Gli scriverò e se la sua risposta concorderà con quello che mi hai detto, ti farò scagionare pubblicamente da ogni accusa. Quanto a me, Jane, credo fin d'ora alla tua sincerità». Mi abbracciò e, sempre tenendomi al suo fianco, dove ero felice di restare poiché provavo un piacere infantile nel contemplare il suo viso, la sua veste, i suoi modesti gioielli, la sua fronte pura, i suoi morbidi capelli e gli occhi luminosi, si rivolse a Helen Burns. «Come ti senti questa sera, Helen? Hai tossito molto oggi?» «Un po' meno del solito, signora, almeno mi sembra. E il dolore al petto? Va un po' meglio». La signorina Temple si alzò, tastò il polso di Helen e ritornò al suo posto. Mentre si sedeva la sentì sospirare. Rimase un momento sopra pensiero, poi riscuotendosi disse allegramente: Voi due siete miei ospiti questa sera e voglio trattarvi come tali. Suonò un campanello. Barbara, disse alla serva che entrava, non ho ancora preso il tè. Porta il vassoio con due tazze in più. Il vassoio fu portato. Come mi parvero belle quelle tazze di porcellana e la lucida teiera sul tavolino tondo accanto al fuoco, e che fragrante profumo saliva dalla bevanda fumante e dai crostini al burro. Erano pochi, però me ne avvidi subito e con delusione perché cominciavo ad avere fame, ma se ne accorse anche la signorina Temple. Barbara, porta un altro po' di pane e burro, ordinò la ragazza. Questi crostini non bastano per tre. Barbara uscì, ma tornò subito. La signora Harden dice che ha mandato la solita quantità, riferì. La signora Harden era la dispensiera e andava a genio al signor Brocklehurst, essendo fatta del suo stesso stampo. Benissimo, rispose la signorina Temple, li faremo bastare. E mentre Barbara usciva, aggiunse sorridendo, per fortuna oggi posso supplire io a quello che manca. Invitò Helena e me ad avvicinarci al tavolo e dopo averci messo davanti le tazze e i crostini, deliziosi ma scarsi, si alzò, aperse un cassetto chiuso a chiave e ne tolse un bel pezzo di pan pepato avvolto nella carta. «Mi ripromettevo di darvene un pezzo da portar via», disse, «ma i crostini sono così pochi che lo mangerete ora», ed affettò il dolce con mano generosa. Quella sera ci parve di nutrirci di nettare e di ambrosia e non ultimo motivo di contentezza era per noi il sorriso di soddisfazione con il quale la signorina Temple ci stava ad osservare mentre divoravamo il cibo delicato, tanto liberalmente, offertoci da lei. Finito di bere il tè e rimosso il vassoio, ella ci chiamò di nuovo accanto al fuoco, sedendosi tra noi due. Ora parlava ad Ellen e io presto mi resi conto che essere ammessa ad ascoltare quella conversazione era un privilegio. La signorina Temple aveva sempre un'espressione così serena, un portamento così nobile e un modo di parlare così proprio raffinato che escludevano ogni esagerazione in lei e attorno a lei, di modo che rispetto e ammirazione si fondevano nel piacere di chi stava a guardarla e ad ascoltarla. Così accade anche a me, quanto ad Ellen Burns, mi lasciò sbalordita. La cena riconfortante, il fuoco allegro, la presenza e la bontà della sua amata educatrice, o forse più di tutto questo, qualche cosa nella sua mente fuori del comune, avevano vivificato tutte le sue facoltà che si risvegliarono e presero fuoco. Splendettero dapprima sulle sue guance, fattesi a un tratto d'un vivo incarnato, mentre io le avevo sempre viste pallide ed esangui. Poi nella liquida luminosità degli occhi, che acquistarono una bellezza ancor più singolare di quella della signorina Temple, una bellezza che non era fatta di colori e di linee, ma che si sprigionava come un'irradiazione dall'intensità del pensiero, dalla vivacità dei sentimenti, dalla sensibilità dell'anima. Ora quell'anima era sulle sue labbra, e le parole presero a sgorgare da non so quale intima sorgente. Può una ragazza di 14 anni avere un cuore abbastanza grande e vigoroso da contenere la sorgente tumultuosa di un'eloquenza pura, piena e fervida? Poiché tale era la caratteristica del linguaggio di Helen in quella sera per me memorabile. Sembrava che il suo spirito avesse fretta di vivere in breve spazio di tempo tutto ciò che altri vivono in una lunga esistenza. Conversavano di cose delle quali non avevo mai sentito parlare, di nazioni e di epoche passate, di paesi lontani, di segreti della natura scoperti o intuiti. Parlarono di libri. Quanti ne avevano letti? Quale ricchezza di cognizioni possedevano? I nomi e gli autori francesi sembravano loro affatto familiari, ma la mia meraviglia giunse al colmo quando la signorina Temple chiese a Helen se trovava il tempo di ripassare il latino insegnatole dal padre e, togliendo un libro dallo scaffale, le disse di leggere e tradurre una pagina di Virgilio. Helen ubbidì e la mia ammirazione aumentava ad ogni linea che ella traduceva. Aveva appena finito che la campana annunziò l'ora di andare a dormire. Bisognava affrettarsi. La signorina Temple ci abbracciò, dicendoci, mentre ci teneva strette, «Iddio vi benedica, figliole!» Trattenne Helen un poco più di me e la lasciò andare con maggiore riluttanza. La seguì con lo sguardo sino alla porta, per lei sospirò di nuovo, per lei si asciugò una lacrima dai cigli. Entrando nel dormitorio udimmo la voce della signorina Scatcherd. Ella stava ispezionando i cassetti e aveva aperto proprio allora quello di Helen, che fu subito accolta con aspri rimproveri e punita per il giorno dopo a portar puntati sulle spalle una mezza dozzina di indumenti mal piegati. «Lo so che il mio cassetto era in disordine», mi disse Helen a bassa voce. «Volevo rassettarlo, ma poi non ci ho più pensato». Il mattino dopo la signorina Scatcherd Scrisse a grosso carattere su un pezzo di cartone la parola sciattona e lo legò al pari di un nastro attorno alla fronte di Helen, quella fronte nobile, dolce e intelligente. Ella si portò attorno fino a sera quel cartello con pazienza e umiltà, considerandolo una meritata punizione. Ma non appena la signorina Scatcherd, al termine delle lezioni pomeridiane, si ritirò, corsi a strappare dalla fronte di Helen la scritta vergognosa e la gettai nel fuoco. La collera di cui ella era incapace mi aveva rosa tutto il giorno e lacrime cocenti mi erano corse continuamente sulle guance, perché lo spettacolo della sua muta rassegnazione mi procurava un dolore intollerabile. Circa una settimana dopo i fatti che ho narrato, la signorina Temple, che aveva scritto al signor Lloyd, ricevette la sua risposta e pare che il testo di quella lettera s'accordasse con il mio racconto. Allora la signorina Temple radunò tutta la scuola e dichiarò che, avendo assunto informazioni sulle colpe di cui era stata accusata Jane Eyre, era felice di poterla dichiarare innocente di ogni imputazione. Le maestre mi strinsero attorno la mano e mi abbracciarono, e un mormorio di soddisfazione corse tra le file delle mie compagne. Alleviata così da quel peso opprimente, mi rimisi al lavoro con nuova lena, decisa ad aprirmi la via attraverso ogni ostacolo. Studiai e lavorai accanitamente e il risultato fu proporzionato ai miei sforzi. La mia memoria, che non era tenace, migliorò con l'esercizio. La pratica mi aguzzò la mente e in capo a poche settimane fui promossa a una classe superiore. In meno di 2 mesi mi fu concesso di cominciare lo studio del francese e del disegno. Quello stesso giorno imparai 2 tempi del verbo être e disegnai la mia prima casetta, i cui muri, a dire il vero, erano ancora più inclinati del famoso campanile di Pisa. Andando a letto quella sera, dimenticai di prepararmi con l'immaginazione la cena succulenta a base di patate arrosto ben calde o di pane bianco e latte appena munto che solevo concedere al mio stomaco vuoto. Mi nutrii invece dello spettacolo di disegni ideali che la fantasia mi faceva intravedere nel buio e che erano tutti opera mia. Case, alberi, rocce, rovine pittoresche disegnate a mano libera, gruppi di mucche alla cuip, leggiadri disegni di farfalle, svolazzanti su boccioli di rose, gli uccelletti che beccavano ciliegie mature, nidi di scriccioli con uova simili a perle, semi nascosti tra l'edera. Fantasticavo anche sulla possibilità di tradurre correntemente un certo libricino francese mostratomi quel giorno dalla signora Pierrot. Tale problema occupava ancora la mia mente quando il sonno mi colse. «Ben», disse Salomone, «meglio un desinare d'erbe quando c'è l'amore di un bue nella stalla insieme all'odio». Ormai non avrei più scambiato Lowood con tutte le sue privazioni per Gateshead con il suo lusso e le sue ricchezze.